Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. A tutti buon inizio settimana. Ci siamo già sentiti poco fa nel corso del giornale radio, abbiamo anticipato il tema del quale parleremo oggi. Allora, circa 6.000 comuni italiani vedranno cessare a partire dal 1 luglio la collaborazione, tra virgolette, con Equitalia per effetto del decreto sviluppo del 2011. L'agente nazionale della riscossione ha scritto nei giorni scorsi ai sindaci invitandoli a non fare più affidamento ai suoi servizi già a partire da oggi, lunedì 20 maggio, perché le nuove cartelle non avrebbero più alcuna possibilità di arrivare in tempo per l'attivazione delle procedure di riscossione. Sono molti i casi in cui però non è stata individuata un'alternativa e manca quindi una soluzione concreta che permetta di effettuare a molti primi cittadini d'Italia la riscossione di tributi e multe. Salva Danaio oggi analizza insieme ai nostri ospiti i possibili scenari che si aprono con questa novità, con l'obiettivo di capire anche a cosa dovrà fare attenzione il singolo contribuente, quali ricadute ci sono per i cittadini, anche se più che altro dovremo parlare di ricadute per i primi cittadini d'Italia. 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi, per discutere con noi del tema di questa mattina. Buongiorno e bentrovato a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. E a Luigi Lovecchio, dottore commercialista esperto di temi fiscali, sempre per il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buongiorno a voi, grazie. Oltre al numero verde, naturalmente gli ascoltatori hanno anche altre modalità per chiacchierare con noi. Ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Il tema è soprattutto: avete una cartella in sospeso, che fine farà anche questo pagamento che doveva essere fatto, magari di un tributo o di una multa non pagata in passato? Allora, prima di tutto questo però uno sguardo molto veloce alla borsa. Sulle 40 società del FTSE MIB questa mattina ben 22 staccano il dividendo: Eni, Saipem, Snam Rete Gas, Intesa San Paolo, Unicredit, Generali, tutte le big, e Milano sta perdendo a causa di questa operazione lo 0,7%. Lo stacco vale circa un punto percentuale, appunto, al netto quindi di questa operazione Milano sarebbe positiva in questo momento di circa lo 0,3% e si allineerebbe a quanto stanno facendo le altre piazze europee. Parigi segna più 0,24%, Francoforte più 0,48%, Londra più 0,04%, i titoli con il segno più: STM più 2,66%, Prismian più 2,60%, Banco Popolare più 1,85%, Monte dei Paschi più 1,67%, anche Azimut stacca il dividendo, in realtà il titolo è positivo per un punto e mezzo, mentre l'operazione si sente di più su Snam Rete Gas, che è in calo di 3 punti, Eni meno 2,63%, Atlantia meno 2,31%. Questi i temi di borsa. Direi che possiamo anche raccontare quello che succede rapidamente ad un titolo che è fuori dal paniere principale: in pregiro più 17%, festeggia la notizia di una maxi commessa in Qatar. È tutto, andiamo al tema di oggi: comuni, si ferma Equitalia, caos per multe e riscossioni coattive. Contravvenzioni non pagate, ritardi per il versamento dell'ICI o dell'IMU o delle tasse sui rifiuti. Ogni anno i comuni italiani producono verbali per 1,4 miliardi, soldi che i contribuenti devono versare e la cui riscossione, nella maggioranza dei casi, è stata finora affidata alla tanto temuta e spesso criticata Equitalia. Dal 1 luglio questo non accadrà più, per effetto del decreto sviluppo del 2011, che ha previsto l'uscita di scena dell'agente nazionale di riscossione da sostituire con altre società o con strutture interne all'amministrazione locale. Da allora sono passati 2 anni e ci sono stati ben 3 rinvii, ma molti comuni sembrano non avere ancora una soluzione in tasca. Se questo non bastasse, c'è da dire che i tempi sono più stretti di quel che sembrano. Equitalia ha scritto nei giorni scorsi ai sindaci per invitarli a non fare più affidamento sui suoi servizi già a partire da oggi, 20 maggio, poiché le nuove cartelle non avrebbero alcuna possibilità di arrivare in tempo per l'attivazione delle procedure di riscossione. Sono circa 6.000 i comuni che entrano in questa situazione di vuoto dei regolamenti, con forti rischi per le casse del municipio, visto che, a quanto pare, Equitalia sarà tenuta a restituire le cartelle che non sarà riuscita a riscuotere. Molti sindaci, rappresentati dall'ANCI, chiedono un decreto d'urgenza per assicurare una continuità, anche provvisoria, per evitare il caos annunciato. Nel frattempo, tra i contribuenti, quasi increduli, si parla di amnistia collettiva e ci si chiede se davvero le cartelle non restituite potrebbero essere stracciate e finire nel dimenticatoio. E figuriamoci se non c'è qualcuno che in queste ore si sfrega le mani. Allora, a proposito di sindaci citati nella nostra scheda, questa mattina, 24 mattino con Alessandro Milan, è intervenuto il sindaco di Pavia, il presidente reggente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, Alessandro Cattaneo, e Alessandro Milan gli ha fatto proprio una domanda sulla questione dell'interruzione del rapporto con Equitalia. Sentiamo che cosa ha risposto. 11 miliardi di euro valgono diciamo la partita che sta gestendo Equitalia, in sostanza vuol dire riscuotere dalle multe, cioè che sono a rischio Tarest. Questi 11 miliardi di euro sono a rischio, non si sa più chi li riscuote. Se da un giorno all'altro Equitalia lasciasse in mezzo alla strada, viene da dire, tanti comuni, sarebbe un problema, perché i residui attivi dei bilanci in sostanza non avrebbero più la certezza di essere riscossi. Noi non diciamo che, come dire, non è che prima eravamo contro Equitalia, adesso siamo entusiasti di Equitalia. Cioè vi dovete tenere Equitalia adesso, ve la dovete tenere, perché se vi abbandona rischiate di non sapere come tirar su 11 miliardi. C'è un periodo di transizione, innanzitutto la riscossione coatta è il vero problema e non è che ci siano in giro molte società che fanno questo mestiere o che sia un mestiere particolarmente gratificante, ed è anche vero che i comuni devono un po' attrezzarsi, perché lei immagini anche i piccolissimi comuni su 8.000, quelli sotto i 5.000 abitanti sono tantissimi, non hanno nemmeno una massa critica appetibile per fare un bando di gara da cui avere successo. Bisogna organizzarsi. Noi sempre diciamo che l'autonomia dei territori è in qualche modo il faro, quindi bisogna che siano liberi i comuni di organizzarsi, però ci sono degli oggettivi problemi nel fare i bandi, nel far sì che questi quindi bandi cosa chiedete? Una sorta di 6 mesi di transizione, di accompagnare la transizione, è solo questo, di accompagnare la transizione, e molti stanno anche collaborando con le regioni, la regione Emilia Romagna ha fatto già delle cose, la regione Lombardia ha dichiarato di dover fare la stazione appaltante da cui poi i comuni possono attingere. Noi stessi come ANCI abbiamo fatto un bando di riferimento quadro nazionale, insomma, semplicemente accompagnare una fase di transizione, che però è una partita particolarmente grossa. No, ma staremo a vedere. Una partita particolarmente grossa, una situazione molto delicata. Adesso di fatto noi abbiamo più volte evocato questo rischio caos che potrebbe partire da oggi, poi oggi magari nei fatti non succederà niente di fatto. Da oggi però, Gianni, trovati appunto Equitalia, se il comune di Canicattì si rivolge all'Agenzia Nazionale della Riscossione per chiedere, guarda, c'è questo pacchetto di contravvenzioni che questi contribuenti, questi cittadini non mi hanno pagato in questo tot periodo, di fatto Equitalia dice no, da oggi non posso più servirti perché non avrei tempo per istruire tutte le pratiche e quindi mettere in piedi tutta la procedura appunto della riscossione, visto che dal 1 luglio Equitalia non potrà più servire appunto questi comuni. C'è una cosa, adesso magari ti faccio commentare tutto questo, però, che mi stupiva del discorso fatto dal sindaco di Pavia, che dice non può lasciarci Equitalia in mezzo a una strada da un giorno all'altro, però tutto sommato avevano un po' di tempo i comuni per attrezzarsi, perché non lo hanno fatto? Sì, qui è una vicenda in cui hanno, diciamo, sbagliato tutti ed è merita di essere sinteticamente ripercorsa, perché è l'esempio classico di come in questo paese si fanno le norme e poi ci si dimentica delle conseguenze. Maggio 2011 arriva la norma del decreto sviluppo governo Berlusconi che dice dal 31 dicembre del 2011 Equitalia cessa le attività in favore con i comuni. Fatto questo, si doveva predisporre una riforma della riscossione locale per fare in modo che i comuni potessero attrezzarsi in maniera diversa. Dopodiché sono passati 6 mesi, non è successo niente, si sono fatte 3 proroghe che ci hanno portato fino ad oggi. Le proroghe in alcuni casi hanno anche impedito ai comuni che lo volessero di bandire gare per appaltare il servizio a soggetti diversi da Equitalia, cioè hanno congelato la situazione. Questo perché? Non per un colpo di follia immediato, ma perché si è detto prima della scadenza della prossima proroga, noi faremo la riforma della riscossione per dire a chi si possono appaltare i servizi di riscossione. Quindi eventualmente si quali regole, esatto, quali regole devono seguire le società private di riscossione, perché ricordiamoci ricordiamoci che in questo paese è scoppiato l'anno scorso, per l'ennesima volta peraltro, lo scandalo di Tributi Italia, che però è come dire simile ad altre vicende più piccole magari, ma analoghe, cioè di società private che sono state accusate di non aver riversato ai comuni i soldi che riscuotevano per loro conto. E allora si è detto, ci vuole una riforma, regole più precise, eccetera. Voi comuni per il momento non appaltate nulla, è vietato appunto cercare soluzioni alternative, e poi fatta la riforma si riaprirà il mercato. La riforma naturalmente non si è fatta, si è fatta poi un'ulteriore proroga, tante altre riforme che... siamo arrivati a oggi, e al comune che oggi o domani dovesse mandare i ruoli nuovi a Equitalia succede qualcosa di ancora più paradossale, perché non è che Equitalia li rifiuta, deve pagare per questa Equitalia li prende, fa una serie di attività amministrative di ufficio, non può arrivare alla riscossione entro il primo di luglio, per cui dovrà il comune pagare Equitalia per perché le attività di gestione e di lavorazione, diciamo così, dei ruoli devono essere pagate. Naturalmente si arriva al primo luglio completamente impreparati, perché con l'eccezione dell'Emilia-Romagna, in cui la regione si è mossa comunque, tra l'altro ha dovuto battagliare TAR, Consiglio di Stato, eccetera, ha appaltato 9 lotti provinciali con le società private di riscossione, che non sono tutte come Tributi Italia, ovviamente ci sono quelli buoni, quelli cattivi, quelli efficienti. Poi magari faremo quelli... anche una panoramica delle alternative ad Equitalia, perché per la verità noi nel nostro paese sentiamo solo ed esclusivamente parlare di questo agente della riscossione, certo, di quello nazionale, ma non conosciamo tutto l'universo. E in più mondo. C'è stata tutta la battaglia politica della cosiddetta riscossione dal volto umano che i comuni volevano fare in alternativa a Equitalia, è una roba molto politica, in realtà non al momento appunto non ci sono regole alternative. La riscossione è fatta secondo strumenti e metodi che non sono decisi autonomamente da Equitalia, ma sono decisi dalla legge dello Stato, e qualunque altro soggetto che svolgesse i compiti che oggi svolge Equitalia dovrebbe svolgerli seguendo la stessa legge dello, certo, Stato. Quindi magari Befera ci sta antipatico oppure ci sta simpatico, e il presidente di un'altra società di riscossione ci sta più simpatico o antipatico di Befera. Tuttavia, certo, le regole sono quelle. Il problema sui contribuenti qual è? Noi parliamo di un sistema. Allora, questo inguacchio normativo non arriva a colpire un sistema che invece in tempi normali è ordinatissimo, efficiente, per cui efficientissimo, porta a riscossione tutto quanto. Interviene su un sistema che è già ricchissimo di problemi, soprattutto per la riscossione locale. Allora, siccome le cartelle in genere, poi lo vecchio ce lo spiegherà molto meglio di come posso fare io, hanno tempi di prescrizione, mm-hmm, che già oggi senza, diciamo, l'intervento esterno di questo caos normativo, spesso portavano le cartelle appunto ad arrivare alla prescrizione senza essere riscosse. Figuriamoci con questo caos che dura da 2 anni e che adesso di fatto impedisce alla larghissima parte dei comuni di, per legge, di strutturare un'ipotesi diversa rispetto a quella di Equitalia, cioè a legge vigente 6.000 comuni su 8.000, la maggioranza di 6.000 comuni su 8.000 sono impossibilitati per legge a svolgere la riscossione coattiva. Incredibile. Allora, io direi che magari fra un po' posso già andare a fare la prima pausa, così senza far intervenire adesso Luigi per interromperlo, però poi brutalmente appunto lo faccio intervenire direttamente nella seconda parte della trasmissione. Ci sono degli ascoltatori, questo è un altro aspetto interessante, alcuni ascoltatori che scrivono, come per esempio Daniele da Viareggio, se avessero fatto come il comune di Massarosa in provincia di Lucca, che da anni incassa da solo, non avrebbero il problema. Quindi bisogna capire anche quando c'è l'obbligo comunque di appaltare ad una società, no, ma è vero, di questo tipo, se c'è la possibilità anche per un comune che si attrezzi con un ufficio e faccia da sé. È molto vero, però il comune di Massarosa, come moltissimi altri comuni, è molto piccolo. No, ma come moltissimi altri comuni che riscuotono direttamente le proprie entrate, ma lo fanno da anni. Allora, un comune che non l'ha fatto fino mai, a ieri, certo, oggi deve rispettare i vincoli del turnover, può assumere una persona ogni 5 uscite, non può assumere gli ufficiali giudiziari ovviamente, perché non rientrano in questo vincolo del turnover. Se ha la società strumentale la dovrebbe chiudere entro giugno, perché c'è un'altra norma, le norme in Italia sono un po' come un videogioco, no? C'è un altro livello di problema, qui è l'articolo 4 della spending review di luglio, che chiede ai comuni di chiudere le società, diciamo, in house strumentali. Ci sono vincoli di spesa, e chiaramente un comune che si è affidato per anni a Equitalia non ha degli uffici attrezzati per svolgere la riscossione coattiva. Dovrebbe assumere delle persone, ma non può farlo. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salvadanaio. Sono almeno 6.000 i comuni italiani che da oggi perdono la possibilità di avvalersi della collaborazione, tra virgolette, dell'Agenzia Nazionale della Riscossione di Equitalia, che da qualche anno, dal 2006 credo, raccoglie le entrate per gli enti locali, perché c'è il decreto sviluppo che dice questo, un decreto sviluppo emanato addirittura nel 2011, e allora in virtù di questa situazione che sta cambiando, Equitalia nei giorni scorsi aveva scritto ai sindaci interessati per invitarli a non inviare loro più ruoli. Allora, Luigi Lovecchio, dottore commercialista, esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, quali sono i tributi che mediamente, generalmente, sono oggetto della cosiddetta riscossione non volontaria, ma coattiva da parte degli enti locali? Sì, allora, una prima precisazione solo a completamento di quello che diceva Gianni Trovati. Ecco, la norma che disponeva il blocco dei nuovi affidamenti e che nel contempo prorogava gli affidamenti in essere sino al 30 di giugno, è una norma che poi è stata fortunatamente cancellata in sede di conversione di un decreto legge che l'aveva introdotta. Questo significa che oggi non c'è nessun ostacolo a che il comune affidi all'esterno la riscossione coattiva. Questo lo dico per anche per tranquillizzare eventuali comuni che si stessero chiedendo: ma loro ho sbagliato a indire una gara per la riscossione coattiva. Ecco, al momento questa disposizione è durata qualche giorno, tempo, diciamo, sì. E dopodiché non c'è stata più. Detto questo, quindi ripeto e ribadisco, i comuni sono liberi di indire gare, però devono rispettare alcune regole precise nella indizione di queste gare, perché anche l'affidamento a terzi della riscossione coattiva è regolata da una disciplina ben precisa. C'è poi anche l'aspetto che forse, se non ricordo male, sollevava anche Cattaneo prima, cioè per un piccolo comune bisogna anche capire se una società di riscossione qualsiasi reputa economicamente conveniente andare a fare questi lavori un po' polverizzati sul territorio, ma questo è un altro aspetto, il lavoro è quello, comunque magari ci si organizza e lo si fa anche. Lovecchio, sì, lascio con questo. Questo peraltro ci porterebbe anche a chiederci perché Equitalia va via, che cosa impone ad Equitalia di andare via, quali sono i vincoli che abbiamo nelle scelte legislative per sostituire alla disciplina di Equitalia altre discipline. Ci sono profili comunitari, è un aspetto piuttosto, certo, complesso, e credo che adesso esatto, andiamo a parlare di ciccia, allora, per attirare un po' anche i nostri ascoltatori. Di quali tributi stiamo parlando, oltre alle multe? Ecco. Stiamo parlando di tutti i tributi locali, il che significa l'ICI fino a quando l'ICI è stata in vigore, quindi fino al 2011 l'ICI era in vigore, e evidentemente la riscossione coattiva dell'ICI può avvenire anche a distanza di tempo, quindi tuttora ci sono problemi di riscossione coattiva di ICI o che è stata iniziata e che non è andata a buon fine, oppure che deve essere ancora iniziata. La tassa sui rifiuti, nelle varie forme che ha assunto nei diversi comuni, perché in alcuni comuni c'è la PASSU, in altri comuni c'è la TIA, insomma, ecco. E quindi un altro bel mondo dove, tra l'altro, negli ultimi tempi ci sono state tante discussioni per la famosa IVA applicata, sì, appunto, temi che abbiamo toccato anche con lei, Lovecchio, quindi tanto per, sì, complicare ulteriormente le cose. Comunque, chiusa. A questo si aggiungono i nuovi tributi, l'IMU. Anche l'IMU è riscossa coattivamente tramite Equitalia. Il primo anno dell'IMU lo abbiamo visto nel 2012, siamo già al secondo anno, si può porre un problema di riscossione coattiva anche di questo tributo. Dal 2013 abbiamo, almeno a legislazione vigente, la TARES, che è la tassa che ha sostituito il tributo sui rifiuti. Anche per la TARES si pongono problemi analoghi. E poi ci sono i cosiddetti tributi minori. minori, cioè i tributi minori sono l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa sulle occupazioni di suoli ed aree pubbliche, e anche i tributi, o meglio i prelievi, che possono essere istituiti in alternativa a questi due tributi, perché l'imposta comunale sulla pubblicità può essere sostituita con un altro prelievo che pure ha natura tributaria, che è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. La TOSAP può essere sostituita con un prelievo che questa volta non ha natura tributaria ma ha natura patrimoniale, che è il canone sulle occupazioni di suoli da repubbliche. Tutte queste entrate tributarie sono riscosse normalmente, coattivamente, tramite l'agente della riscossione. E attraverso un meccanismo di ingiunzione fiscale che magari poi spieghiamo lo vecchio. Adesso direi di sentire anche qualche altro ascoltatore per capire un po' che cosa hanno capito anche di tutto questo e se ci sono anche delle situazioni concrete che già appunto sono state messe in moto da queste novità. Matteo da Roma, il primo ascoltatore che chiamo, non casualmente perché a Roma vive una situazione singolare. Buongiorno Matteo. Salve, buongiorno. Sì, io volevo sapere più che altro il discorso della gestione del transitorio, nel senso, so che il mio comune ha abbandonato, sta abbandonando, non ho capito la riscossione da parte di Equitalia, e volevo sapere eventuali cartelle che uno ha già ricevuto da parte di Equitalia che ancora non sono state pagate, se devono essere pagate o se bisogna aspettare che vengano rimesse in ruolo dalla nuova agenzia di riscossione. Quando sarà insomma operativa al 100%. Matteo, la ringrazio. Allora, io qui non lo so, Gianni Trovati, per me qui c'è una, come dire, un comportamento di buonsenso. Se lui la cartella l'ha già ricevuta, l'agente ufficiale della riscossione del procedimento era quello, deve diciamo forse pagarle, basta aspettare che un'altra un vale altro documento, il principio che le cartelle ricevute si pagano, ecco. Su questo non c'è dubbio, tuttavia non speriamo di farla franca perché c'è no, tutta questa confusione. Su questo principio mi sentirei tendenzialmente di non derogare. Dopo chiediamo anche allo vecchio. Tuttavia, questa questione che solleva l'ascoltatore delle partite transitorie è una questione rilevantissima, perché la norma cosa dice? La norma dice che Equitalia, dalla tal data che è stata prorogata tre volte, cessa l'attività. Cessa l'attività vuol dire che io prendo la penna, la metto sul banco, prendo il soprabito, se è inverno esco e me ne vado. Quindi non si prevede nessuna gestione transitoria, cioè non è che le cartelle emesse da Equitalia fino al giorno prima della scadenza vengono gestite da Equitalia fino a quando si arriva alla riscossione. Equitalia prende, le impacchetta, le dà, in questo caso nel comune di Roma, a Equaroma, la quale si vedrà arrivare, questa valanga di, anche perché a Roma insomma la situazione è un po' particolare, valanga è il termine appropriato, si vedrà arrivare questa valanga di ruoli, di partite aperte, cioè, le dovrà riesaminare tutte, riordinare e ripartire con le attività ordinarie di riscossione. Peraltro cambiano le regole, perché l'iscrizione a ruolo è una prerogativa esclusiva di Equitalia. Tutti gli altri soggetti, i comuni che riscuotono direttamente e così via, le società locali in-house, le società private, svolgono la riscossione coattiva mediante ingiunzione, che è uno strumento modernissimo previsto dal Regio Decreto del 1910, che poi, per carità, è stato anche ritoccato, riformato, c'è l'ingiunzione cosiddetta rafforzata. Ulteriormente ammodernato. Però, insomma, hanno in mano uno strumento che è nato 103 anni fa, e quindi questo complica ulteriormente le cose. Si vede che funzionava, perché non capisco perché funziona, sia infatti così la riscossione in Italia funziona benissimo. Ecco. Allora, lo vecchio voleva formulare ulteriori precisazioni sul tema delle situazioni transitorie che erano state sollevate appunto dall'ascoltatore romano. Lui dice, insomma, io ho già delle cartelle, le pago o aspetto che si rimetta in piedi con la nuova società che gestirà Roma, Equaroma, appunto un meccanismo nuovo di riscossione coattivo. Sì. Sì, allora dunque sono d'accordo ovviamente con quello che ha detto Gianni Trovati, nel senso che se ho ricevuto una cartella, pago la cartella con le modalità che sono stabilite per la cartella, quindi pago all'agente della riscossione. Faccio solo una considerazione proprio veramente di dettaglio. Io non conosco la gara, i termini della gara che ha fatto Roma, il Comune di Roma, e quindi non so se questa gara è pensata anche per prendersi in carico tutto l'arretrato di Equitalia, oppure una gara fatta con l'auspicio che ci sia una proroga degli affidamenti ad Equitalia e quindi con l'affidamento a questa nuova società romana solo delle nuove riscossioni. Da quello che capisco è che Roma dal 1 luglio sarà operativa. Quindi però temo appunto, giustamente Lovecchio sottolinea il tema poi tecnico, perché temo che a Roma siamo per il momento agli annunci di campagna elettorale infatti. Lovecchio. Sì, appunto, per cui andrebbe fatta questa distinzione, cioè per dare una risposta molto puntuale bisognerebbe andare a vedere se la gara, quando verrà fatta, se è stata fatta o quant'altro, prevede anche la presa in carico di tutto il pregresso di Equitalia, oppure, come ho appena detto, se con l'auspicio che ci sia una proroga l'affidamento al nuovo riscossore valga solo per le nuove riscossioni coattive, perché se così fosse il problema posto dall'ascoltatore sarebbe risolto in radice. Tutto ciò che arriva da Equitalia deve essere pagato da Equitalia. Solo ciò che arriva dalla società romana deve essere pagato alla società romana. Spero di essere stato chiaro. Siccome il come dire, candidato che ha fatto il super annuncio è lo stesso come dire, che sta lasciando l'incarico, per non fare nomi e cognomi, penso che conoscerà bene la situazione e quindi magari la chiarirà al più presto. Sì, sta o lasciando l'incarico, ma è anche candidato. Per cui esatto, lo infatti tiene, quello volevo dire. Per cui questa transizione sarà probabilmente... Sì, però il problema appunto è proprio, dico al di là del caso Roma, è stato sottolineato anche dai tecnici dell'ANCI e da un po' tutti gli operatori, questa addizione cessa l'attività è un'addizione un po' pericolosa perché appunto essendo partite complicate e importanti, parliamo di soldi pubblici alla fine, che nel loro complesso valgono molto più dell'IMU sull'abitazione principale su cui ci stiamo appassionando. Parlava di 11 miliardi stamattina. Da settimana solo di arretrato, esatto. Ma poi c'è l'ordinario, eccetera, eccetera. Questa definizione della norma cessa l'attività non nulla dice sul pregresso. Proprio come dire, quando si fa un passaggio di questo genere è meglio specificare nella norma che cosa succede nella fase transitoria, quanto dura la fase transitoria e tutto proprio questo. Proprio per definire tutto bene questo, anche i termini delle prescrizioni di cui sì, anche perché prima, c'è per il problema che Equitalia con la norma cessa l'attività, con la norma che dice cessa l'attività, ha la possibilità, visto che è da un certo punto di vista interessata a questo, di cessare l'attività, appunto, come dice la norma, e quindi di riversare, ed è quello che temono i comuni, tutto l'arretrato da rilavorare e da rigestire da parte di un soggetto con nuovo. Con oneri magari ulteriori ancora per gli enti locali. Rapidamente verso la conclusione del nostro programma, dal 1 luglio Equitalia non servirà più i comuni italiani per la riscossione coattiva di tributi non pagati, allora in attesa che arrivi questa data Equitalia ha già intimato ai sindaci di non girare più loro i cosiddetti ruoli, insomma la situazione è piuttosto complessa, ma di fatto i comuni devono riorganizzarsi completamente per riscuotere appunto, visto che Equitalia non lo farà più. Come si stanno attrezzando? È una bella gatta da pelare per molti enti locali. Tra l'altro si aprirà anche probabilmente una fase di interregno tra il vecchio e il nuovo, nel frattempo i problemi concreti dei cittadini. Sentiamo Vincenza da Palermo. Buongiorno Vincenza. Buongiorno, intanto complimenti per questa trasmissione interessantissima che fate. Grazie Vincenza, ci dica. La settimana scorsa io ho ricevuto qua a casa una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate indirizzata a mio nipote che ha 9 anni e vive qua con me con la mamma. Cosa ha combinato questo bambino? Ovviamente scherzo Vincenza, ecco. Che è successo? È praticamente un ricorso che aveva presentato la madre nel 2010 e il ricorso è stato respinto e le spese giudiziarie le hanno addebitate al mio nipote. Bene. Ecco, quindi a questo punto sono perplessa, dico non so dove andare all'Agenzia delle Entrate, certo. Fare notare che si tratta di un minore. O magari potrebbe anche in virtù di questo errore macroscopico appunto magari, non lo so, intraprendere qualche strada che indichi la nullità di un provvedimento di questo tipo. Vincenza, aspetti un attimo, ci metto insieme al suo anche il caso di Fabrizio da Piacenza, poi a Luigi Lovecchio chiediamo appunto di darci una mano a dirimere, come dire, a districare entrambe le matasse. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie della telefonata. Grazie, ci dica. Dunque, il mio problema è un po' anomalo. Mi chiedono interessi su una cartella che io ho dimostrato pagata, che è composta da tanto l'imponibile e la mora per un totale. Su questa cartella, stando all'Equitalia di Piacenza, esistono ancora interessi per 1.400 euro. Uh-huh. La situazione è talmente strana che mi ritrovo una casa ipotecata, perciò non posso accedere a nessun credito perché è tutto ipotecato, e il valore rimanente, stando a Equitalia, sebbene io ho dimostrato la cartella pagata, si stanno rimbalzando questa patata bollente da Rimini, Bologna, Piacenza, e nessuno vuol prendersi a briga su questa situazione. Io sono andato per avvocato, sto aspettando adesso la risposta, loro mi hanno già detto che purtroppo non possono fare niente e non possono nemmeno togliere l'ipoteca alla casa. E io ho la cartella pagata in mano. Certo, Fabrizio, mi guardi. Allora, Lovecchio, da quale caso? Partiamo dal primo caso, che è sicuramente quello più originale. Fabrizio, tra l'altro, diceva ho un caso anomalo, per non parlare del primo, insomma, che arriva una notifica ad un minore per un ricorso presentato da sua mamma qualche tempo fa. Sì, quello che però non ho capito è se la mamma c'è ancora. Sì, sì, cioè, certo, Vincenza. Io sono la nonna. Sì, esatto, sì. Quindi sì, no, io certo. Io sono la nonna. Sì. Ma la mamma c'è ancora? Sì. Ah, certo. Vabbè, allora proprio davvero è inspiegabile questa cosa, non riesco a comprendere, bisognerebbe andare a vedere ovviamente gli atti, perché non è evidentemente ammissibile che la mamma presenti un ricorso, questo ricorso venga rigettato e le spese ricadano in capo a un minore. È evidente che c'è qualche cosa che non è andata e che quindi andrà corretta. Ecco, certo, però nel frattempo una cartella esattoriale probabilmente con un importo da pagare. Se Vincenza non rispetta questo pagamento, che cosa rischia? Comunque lo può. Dopo che uno è andato con le buone, è andato a parlare all'agenzia delle entrate o è andato a parlare all'agente della riscossione e ha cercato di far capire che il ragazzo non può essere perseguito per un debito, prima di tutto perché è un minore, poi è un debito che probabilmente è ascrivibile. Direi che non ha sicuramente contratto lui, ecco. Ecco, e allora io mi sento di dire che ovviamente a quel punto presenterei un ricorso, perché impugnerei la cartella nei 60 giorni dalla notifica. Cioè, però è pazzesco, sì, che debba farlo tutto Vincenza, perché questi qua hanno commesso, come al solito, l'inversione dell'onere della prova che ricade sul contribuente, no? È una cosa assurda, però altrimenti si arriva alla situazione in cui è giunto il secondo ascoltatore, cioè il secondo ascoltatore è quando ha ricevuto degli atti dall'agente della riscossione, per esempio quando ha ricevuto una richiesta di pagamento di ulteriori interessi, quando ha ricevuto la notifica dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca, ha in perfetta buona fede, quindi lungi da me l'idea di criticarlo, ha in perfetta buona fede pensato, va bene, adesso io vado lì, gli faccio vedere che ho pagato e mi tolgono tutto. Ecco, quello che è successo al secondo ascoltatore emblematico, è andato lì, ha fatto vedere che ha pagato e non gli hanno tolto niente. Il risultato finale è che si trova con un'ipoteca che oggi fa fatica ad impugnare perché è stata iscritta, immagino, mesi e mesi fa, e quindi come faccio a iscrivere qualcosa che mi è stato già notificato e mi è stato notificato tempo fa, una cartella che non riesco nemmeno ad impugnare perché mi è stata notificata tanto tempo fa. Questa cosa, per chi opera in questo settore come accade a me, ha insegnato a tutti mai riporre tutte le proprie speranze solo sulle istanze e le richieste di autotutela agli enti. Allora, e questo lo dico e lo ripeto 300.000 volte, non rinunciare. Dobbiamo chiudere mai, Lovecchio, sì, non rinunciamo mai a impugnare gli atti. Benissimo. Perché se uno si rende conto che con le richieste bonarie... Devo chiudere, Lovecchio, abbiamo capito, ci ritorneremo su questi argomenti, dovevamo dire tante altre cose, ci ritorneremo, a domani. Salva Danaio.